Da, da, Daniel Levit. Da, da, Daniel Levit. Da, da, Daniel Levit. Daniel Levit, si roblio. Balla, balla, balla, pompa il volume. Balla, balla, balla, pompa il volume. Balla, balla, balla, pompa il volume. Pompa il volume, vai Daniel. Seduto ad un angolo e guardi il mio spettacolo. È imbarazzante per te fare finta di che? Fare finta di niente. Mi hai visto a Sanremo e mi credi uno scemo, ma credibile come me adesso non ce n'è. Senti perché il protagonista lo sa, la cupista lo sa, che il giornalista lo sa. Oh oh oh oh, il tuo migliore artista lo sa, chi scende in pista lo sa, la gente onesta lo sa. A Roma già ballano, a Milano già ballano, a Palermo già ballano, e se tu non balli io vivrò lo stesso. A Roma già ballano, a Milano già ballano, a Palermo già ballano, e se tu non balli io vivrò lo stesso. Dalla cassa senti che suona, sulla bocca di ogni persona, Daniel Levit sta arrivando nella tua zona. Pompa la mia musica, se non è trucida io sono contento così. Daniel Levit sforna un'altra hit, perché tua sorella lo sa, fotomodella lo sa, la gente che balla lo sa. Oh oh oh oh, pure Tiziano Ferro lo sa, e balla a casa con la cara, io porto suoni di novità. Oh oh oh oh oh oh, a Roma già ballano, a Milano già ballano, a Palermo